Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete con i settimanali periodici in genere italiani, talvolta anche stranieri. Ovviamente i periodici, qualsiasi periodico italiano, ma persino quelli stranieri, non possono esimersi dal parlare della manovra. La manovra sta occupando le cronache di questi giorni, ne sentite parlare qui a Radio 24, ne leggete sul Sole 24 Ore, ne leggete probabilmente anche sul nostro sito ilsole24.com. Insomma, tutti i settimanali non possono sganciarsi, non possono smarcarsi da questo momento di cronaca. Vi segnalo però una cosa interessante, perché Vita, settimanale come sapete dedicato ai temi del no profit, ha un'intervista a Elsa Fornero, che è un po' la donna del momento, perché è poi il ministro che ha la competenza appunto per quanto riguarda le pensioni e la riforma delle pensioni, che tanto così ci sta preoccupando un po' tutti quanti per via della revisione delle regole. E da in questa intervista il ministro Fornero dà una serie di precisazioni, in qualche modo, non tanto sul meccanismo tecnico, quello probabilmente lo avete sentito raccontare qui a Radio 24, l'avete letto sulle molte guide che di giorno in giorno riportiamo sul Sole 24 Ore, quanto sulla filosofia che ha ispirato il suo intervento. E dice... le chiedono appunto, veniamo alle pensioni, parliamo di pensioni, le chiede Stefano Arduini in questa intervista su Vita, e dice: c'è una parte di interventi che caratterizza la manovra, quali l'allargamento del sistema contributivo a tutti, che è una parte di interventi certamente equa, perché è in almeno due direzioni equa. La prima è l'equità fra generazioni, così spiega il ministro Fornero. Abbiamo fatto scelte che garantiscono anche chi oggi non ha l'età per votare, cosa che finora nessuno aveva fatto. Poi c'è l'equità fra gruppi sociali, prosegue la Fornero. Ora tutti i lavoratori, che siano dipendenti pubblici, privati, liberi professionisti o politici, riceveranno la pensione in base agli stessi principi, gli anni di lavoro e l'età in cui andranno in pensione. L'uniformità di trattamento, conclude nella sua risposta il ministro Fornero, è assicurata per tutti, al di là dei privilegi che in questi anni i politici hanno assicurato a quella o a quell'altra categoria. Le uniche eccezioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte per i redditi più bassi. Però, obietta Arduini, c'è chi non si vedrà indicizzare la pensione, sapete, l'adeguamento al costo della vita, appunto, che è stato bloccato. Inizialmente era stato bloccato per una somma di poco inferiore ai 1000 euro, poi nel dibattito parlamentare si è riusciti ad alzare questa soglia, quindi il blocco della rivalutazione sarà a tre volte il trattamento minimo, diciamo poco sopra i 1400 euro. Le obietta appunto Arduini: ma questo appunto di non indicizzare le pensioni le sembra una cosa equa? Risponde: certo che no, è stato un sacrificio che ci è stato imposto dai vincoli di bilancio. Però questo segmento del provvedimento, e si riferisce a tutta la manovra, non fa certo parte della riforma. Lo ripeto, il caposaldo del nuovo sistema pensionistico è solo ed esclusivamente il lavoro. Poi naturalmente Arduini pone molte altre domande al ministro Fornero, le trovate, ripeto, su Vita, in edicola da venerdì scorso. E tanto per restare in tema di manovra e per restare ancora su Vita, c'è un interessante contributo che è stato redatto da un avvocato, Marco Ciamei, un avvocato che fa un po' il punto su un tema molto popolare in queste settimane: l'ICI e la Chiesa. Come sapete ci sono polemiche perché si dice non è stata reintrodotta l'ICI, si chiamerà IMU, ma insomma poco importa, sulle prime case, quindi i proprietari delle proprie abitazioni dovranno pagare questa imposta dal prossimo anno. Ci sono poi tutta una serie di regole di distinguo, di sconti che sono stati anche introdotti durante il dibattito parlamentare, ma questa imposta non si applicherà agli immobili posseduti dalla Chiesa Cattolica. Allora qui c'è effettivamente un pochino di confusione, perché l'informazione non è proprio scorretta ma è un po' incompleta. La completa molto bene questa mezza pagina di Vita. Si dice appunto: l'esenzione è riservata agli enti della Chiesa Cattolica. Non è così, o meglio non è completo. In realtà, spiegano su Vita, la legge destina questa esenzione a tutti gli enti non commerciali, categoria categoria nella quale rientrano certamente gli enti ecclesiastici, ma che comprende anche associazioni, fondazioni, comitati, onlus, cioè organizzazioni non lucrative, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, sindacati e partiti politici. Poi ci sono gli enti religiosi di tutte le confessioni e in generale tutto quello che si definisce mondo del non profit. Anche gli enti pubblici fanno parte di questa particolare categoria fiscale che si chiama appunto degli enti non commerciali, che non viene gravata dall'imposta, non veniva gravata da ICI, non verrà gravata da IMU, salvo appunto correttivi dell'ultima ora che potranno venire dal Parlamento. Non è vero però che tutti gli immobili della Chiesa Cattolica siano esenti dal prelievo, ovvero meglio, tutti gli immobili degli enti non commerciali siano esenti dal prelievo. Ad esempio, spiega Ciamei, sono esenti se destinati ad attività non commerciali, quindi in tutti gli altri casi, come immobili destinati a librerie, ristoranti, hotel, negozi, case in affitto, allora sono tenuti a pagare regolarmente l'imposta. Poi si è letto anche che questa esenzione valeva per tutti i tipi di imposte. Questo non è assolutamente vero. L'esenzione dall'ICI non ha effetto, o IMU che dir si voglia, non ha effetto sul trattamento che riguarda le imposte sui redditi, l'IVA, eccetera, non dà altri esoneri congiunti in qualche modo. E poi si è sentito e si è letto anche gli alberghi di proprietà della Chiesa o degli enti non profit, quindi il vasto mondo del terzo settore, come si dice, sono esenti. Non è esattamente così, anche qui è utile precisarlo. A essere esenti sono quegli immobili che vengono destinati ad attività ricettive. Cosa significa? Sono immobili nei quali si svolgono attività di ricettività complementare e secondaria, ad esempio pensionati per gli studenti fuori sede, i luoghi di accoglienza dove vengono ospitati i parenti di malati ricoverati in strutture sanitarie che sono distanti dalla propria residenza. Poi ci sono quelli alloggi tipo case per ferie di lavoratori, colonie, eccetera eccetera. Questo tipo di immobili può essere esente per tutti gli enti non profit, può essere esente dall'IMU. Infine, tra le molte cose che sono girate anche su internet, ad esempio, basta mettere una cappelletta per avere l'esenzione, basta mettere una statua di qualche santo. No, questo è assolutamente falso. Naturalmente non c'è nessun presupposto di esclusione fiscale dal fatto di avere un'immagine votiva, un'icona, una statua, quello che volete voi, o anche un luogo destinato al raccoglimento, non espressamente al culto, come può essere appunto la chiesa, l'edificio della chiesa. Ecco, questo non garantisce assolutamente l'esenzione dall'IMU. Tutto questo su Vita di questa settimana. E allora, abbiamo parlato della manovra che, vi dicevo, viene poi affrontata un po' da tutti i settimanali. Trovate qualsiasi tipo di approfondimento, direi, anche se vi ricordo la manovra si sta modificando, è stata modificata nel passaggio parlamentare, quindi è molto importante tenersi poi aggiornati con le ultime indicazioni che vengono dalle Camere. Ci sono però delle cose quindi che cambieranno, ci sono delle cose che sembrano non cambiare mai. Giovanni Puglisi su 7 del Corriere della Sera, lo trovate appunto in edicola con il Corriere della Sera, ci segnala uno di quei malvezzi che chissà perché sono duri a morire, probabilmente non solo in Italia. Si tratta della norma che non impedisce al coniuge di un rettore di presentarsi al concorso presso quella università. Perché questa norma suscita scandalo? Perché con una recentissima riforma universitaria varata dall'ex ministro Maria Stella Gelmini era stato vietato di presentarsi ai concorsi se si era in rapporto di parentela fino al quarto grado con il rettore o comunque con un qualunque esponente di primo piano dell'università che bandisce questo concorso. Bene, tutto questo divieto, come dire, abbastanza esteso, perché si arriva appunto al quarto grado di parentela, non vale però per il contratto coniugale, non vale per il coniuge, quindi la moglie o il marito, che invece si può presentare. Qualche università, tra l'altro, ha notato la carenza e, cercando di interpretare la legge, ha detto: beh, noi vieteremo anche per quanto riguarda i coniugi. Ma questo è stato subito censurato dal Ministero, che ha detto che era uno scostamento dalla legge, e quindi il problema rimane lì. Si sono presentati già dei casi appunto di questi coniugi che finiscono per non essere impediti nella partecipazione al concorso, quando invece magari parenti più alla lontana ne vengono impediti. Però appunto resistere a certi comportamenti che in realtà sarebbero più eticamente censurabili, forse senza il bisogno di aspettare una legge, ecco, la resistenza di questi comportamenti davvero è molto molto pronunciata e molto difficile da scardinare. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Nella nostra prima parte abbiamo parlato a lungo della manovra, ma non si riesce a farne a meno in questi giorni. Oramai anche il dibattito sulle pensioni è diventato un dibattito, come dire, che tutti facciamo, tutti ci poniamo domande sull'ICI, sull'imposta sulla prima casa, sull'aumento della benzina, al bar, nei luoghi di lavoro, insomma non si parla d'altro, e quindi ovviamente non si scrive d'altro. Questo accade anche nei settimanali. C'è uno spunto interessante in questi giorni è in edicola L'Impresa, che è un mensile che appunto viene edito sempre dal Sole 24 Ore, e pone a confronto, appunto segnala una circostanza: il benefit preferito dei dipendenti. Ovviamente, sentendoci tutti un po' pressati dalle richieste del governo, cerchiamo anche di individuare quale potrebbe essere un benefit che ci farebbe particolarmente comodo. Allora, secondo un'indagine che è stata fatta da Page Personnel, che viene appunto presentata sull'Impresa, un quarto dei dipendenti vorrebbe avere a disposizione un servizio di mensa aziendale. Questo è il benefit preferito. E poi anche il parcheggio per l'auto, per evitare appunto di cercare il parcheggio nei dintorni del luogo di lavoro o di dover pagare un parcheggio nei dintorni del luogo di lavoro, è preferito, diciamo, da un intervistato su 5. Più in giù si trovano cose del tipo poter trascorrere l'ora di pausa in palestra, in una palestra convenzionata, oppure avere delle convenzioni per particolari prestazioni sanitarie, come il dentista ad esempio, che viene espressamente richiesto. Poi c'è una quota che opta per l'asilo nido aziendale, e non sorprendentemente questa quota è costituita soprattutto dalle mamme lavoratrici. C'è poi una minoranza che chiede di aiutare i dipendenti a risolvere il problema del pagamento delle bollette, di farsi carico del pagamento delle bollette. Naturalmente per le aziende queste sono poi informazioni essenziali, anche in un momento in cui si tratta di rivedere magari i rapporti contrattuali con i dipendenti. Abbiamo parlato di un benefit particolarmente gradito alle mamme, alle donne, cioè quello di poter avere degli asili nido aziendali, una richiesta che non ha una grande eco, viene scelta solo da poche, una piccola percentuale di dipendenti. Vorrei alleggerire un po', perché questa puntata rischia di diventare un pochino incentrata su tematiche economiche, su quanto ci costerà questa manovra. Provo ad alleggerire ricorrendo a un femminile. Si tratta di To Style, presenta uno di quei dizionari di cui c'è sempre bisogno, il dizionario uomo-donna, ovvero è notorio che spesso la stessa frase detta da un uomo e detta da una donna non hanno esattamente lo stesso significato. Ci sono anche delle mail che girano e che mettono a confronto questa cosa. Qui in realtà si presentano in diverse pagine, in un lavoro che ha fatto Marta Minghi con la consulenza di una psicologa, appunto alcuni dei grandi equivoci che si generano nel dialogo tra uomo e donna. E poi c'è una divertente tabellina, ad esempio se lei dice poi vediamo, ecco, dobbiamo stare attenti, perché il poi vediamo detto da lei non è un poi vediamo, è un assolutamente no, non se ne parla neppure, e il ne ho davvero bisogno non è un ne ho davvero bisogno, ma è un esiguo a tutti i costi. E poi dobbiamo discutere, naturalmente è una frase che significa ho ragione io, ma questo, come dire, tacciatemi pure di misoginia, credo che sia proprio vero. Abbiamo anche noi maschietti, come dire, dei vezzi linguistici non sempre comprensibili dall'altro sesso, perché appunto quando noi diciamo poi vediamo, di solito vogliamo dire adesso non ho proprio voglia di pensarci. E poi ci sono invece delle cose in cui siamo effettivamente trasparenti, cioè quando un uomo dice sono a pezzi probabilmente non sta cercando un conforto, un sollievo o qualcos'altro, sta cercando proprio di dire sono a pezzi. È un caso in cui quello che viene detto coincide effettivamente con quello di ieri sera. Più impegnative certe traduzioni vedo qua appunto da questo mini catalogo: che bel vestito, che quando viene detto da un uomo però sarebbe un ma non è lo stesso di ieri. E questo mi sembra però davvero un momento di poca galanteria, quindi mi fermerei qui, vi rimando a Two Style per l'elenco completo. Vorrei tornare su un mensile di cui avete forse già sentito nella puntata precedente. Si tratta di il mensile che viene proposto appunto dal Sole 24 Ore, Intelligence in Lifestyle. C'è un bell'articolo di Paolo Martini che non vi posso leggere perché non ho tutto il tempo necessario, ma è molto molto interessante per quanto riguarda lo spunto che fornisce. La sostanza di questo articolo è che abbiamo la tendenza a mitizzare la TV. Il titolo è Basta vivere di TV, ma non vuol dire spegniamo la TV, tutt'altro. Dice: siamo un po' ossessionati, abbiamo dato alla TV un ruolo di matrice culturale, così scrive Martini. E questo ruolo, con questo ruolo la TV è uscita proprio dal suo ruolo. Dice: non è che noi abbiamo una televisione peggiore di quella di tanti altri paesi, scrive Martini. Come è noto, i format dei programmi sono ormai prevalentemente internazionali, quindi vediamo più o meno le stesse trasmissioni degli americani o degli spagnoli. Però ciò che ha soffocato il nostro paese per molti anni è il livello di considerazione dei contenuti, dei significati della TV, come un terribile effetto di distorsione che forse è lo specchio deforme di quel sovrappiù di missione che alla TV pubblica cosiddetta educativa era stato attribuito nel dopoguerra dai cattolici che avevano governato la RAI. Quindi, dice Martini, sarà anche snob la mia affermazione, ma per chiuderla con la peggiocrazia, che poi è il tema centrale di questo numero di Il, bisognerà rimettere prima di tutto la TV al suo posto. Vi voglio segnalare brevissimamente un magazine che non trovate in edicola, ma che trovate solo sul computer. Si tratta della Vita Nova, è un magazine che ha avuto 3 uscite quest'anno, un magazine che viene proposto dal Sole 24 Ore, un magazine assolutamente digitale. Non posso spiegarvi né naturalmente mostrarvi nulla, vi rimando, se avete un iPad, collegatevi all'app appunto del Sole 24 Ore, trovate la Vita Nova, è in uscita il terzo numero, è tutto quello che si potrebbe fare, che si può fare quando non c'è il limite della carta e quindi i grafici diventano animati, i disegni possono diventare fotografie e viceversa, le cose, le informazioni che vengono fornite si arricchiscono grazie alle interrogazioni che voi fate della rivista, un po' davvero come quel giornale del profeta di cui si legge nei libri di Harry Potter. Ecco, la Vita Nova, l'ultimo numero, da pochissimo, da 2 giorni a disposizione sul L'App Store, è un'anticipazione di quella Gazzetta del Profeta. Abbiamo un minuto, mi fa segno Roberto Scaltritti dall'altra parte del vetro, forse qualche cosa meno. Allora, dove devono andare a vivere le donne se vogliono essere felici? Lo prendo da 7 ancora. In Islanda, perché secondo il World Economic Forum, quindi un istituto di ricerca di tutto rispetto, questo è il paese che offre la miglior qualità di vita alla popolazione femminile. Hanno analizzato il gender gap, cioè il divario di genere, in 135 paesi, guardando i salari, la percentuale delle donne che lavorano, chi svolge lavori di elevata specializzazione, ne hanno dedotto che il posto dove c'è più parità effettiva è proprio l'Islanda. Gli Stati Uniti stanno al 17° posto, l'Italia sta al 74°. Diciamo che possiamo migliorare. Buona domenica a tutti.